Di nuovo dal corteo, allora so che ci sono anche striscioni, bandiere scritte in greco, fanzine che girano, allora, da dove vuoi cominciare? Allora, chiaramente siamo in corteo, c'è uno striscione che immagino sia tenuto insomma da compagni e compagne del comitato di Condove, Notab. Accanto c'è uno striscione, appunto, sarà dura, ma con una scritta in greco, che ora vi farò tradurre chiaramente da chi porta lo striscione. È uno striscione abbastanza particolare, si nota proprio perché è scritto in greco, oltre al fatto che poi a tenerlo insomma sono tutte donne. Noi in radio ci siamo spesso occupati di Grecia, mi sembra insomma un dato da cogliere, no? Questa vicinanza tra questo richiamo insomma in valle con la lotta che sta conducendo il proletariato greco. Quindi ti passo Marinella, a cui innanzitutto io vorrei chiedere il perché di questo striscione. Ciao, la ragione dello striscione è in pratica una forma di solidarietà con la Grecia. In pratica lo striscione scrive italiani e greci una faccia e una patria ed è riferito a Cheratea. Cheratea è una città della Grecia dove lo scorso anno si voleva fare una si volevano portare praticamente i rifiuti di Atene e Cheratea si è totalmente ribellata e nell'arco di circa 4 mesi, comunque con una forte resistenza alla polizia, sono riusciti a vincere la loro lotta. Anche perché insomma diciamo le parole d'ordine ce ne sono tantissime tra la Grecia e l'Italia, insomma, certo, per quanto riguarda certo. La crisi, anche vediamo come per esempio certo. I media mainstream usano un determinato linguaggio quando devono commentare gli anarchici che vengono accolti ad applausi nei cortei della Grecia, e questi anarchici poi quando entrano nei nostri cortei diventano cattivissimi black bloc da reprimere e allontanare. Questo sicuramente poi quando entreremo poi nel metodo delle riflessioni di quello che è successo ce ne sarebbe da dire. Però sicuramente insomma l'Italia e la Grecia rispetto a quello che vogliono far sembrare sono assolutamente più vicine, dalla difesa dei territori al rifiuto di un sistema che ha creato una crisi che adesso accolla a chi l'ha sempre pagata. Certamente, la ragione è fondamentalmente questa, e poi è uno striscione portato da donne perché comunque la lotta, la resistenza cheratea è stata sostenuta con grande forza dalle donne. È la stessa cosa che noi facciamo qua da anni, mettendo il nostro tempo libero, il nostro coraggio e comunque la nostra forza. Tra l'altro le donne in Val di Susa hanno proprio avuto delle pratiche proprie, come accade di solito insomma tra donne, che sono state insomma notevoli nella lotta, hanno creato certo. Si sono create il loro ambito e hanno portato lì le loro pratiche, che mi sembra veramente una cosa fondamentale insomma. Certo, certo, le donne con le famiglie, con comunque la caparbietà un po' dell'essere montanari ci porta a continuare questa lotta. Va bene, io ti ringrazio tantissimo, se ci vuoi passare il nostro compagno, in bocca al lupo per questo corteo, un abbraccio da Roma. Grazie, io ringrazio voi, grazie mille, ciao. Ciao.